English 24. Un saluto da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. Oggi parliamo di un personaggio leggendario per chi si occupa di stile e di tendenze. Si chiama Tyler Brûlé, è un giornalista canadese, ma fa anche l'editore. Ha poco più di 40 anni, ha iniziato la BBC, ha fatto il reporter di guerra in Afghanistan, ha anche avuto un grave incidente, è stato coinvolto in un attacco. Poi nel 94, appunto giovanissimo, ha deciso di diventare editore, ha lanciato la sua rivista Wallpaper, che poi ha venduto a carissimo prezzo. Nel 2007 ne ha lanciata un'altra, Monocle. Beh, Giulia ha scovato una sua intervista di qualche tempo fa al canale canadese QTV. Svelava il nostro Tyler Brûlé una delle sue classifiche delle migliori città del mondo. Well, I can reveal that one North American city, one Canadian city, made it into the top 10. And there is a second Canadian city, which is in position 11 to 20. Should I tell you who they are? No, they won't switch off. Okay, I think that the city that made it into the top 10 rhymes with Brandouver, right? I think so. Yes, it does. Vancouver. Yes. Vancouver is ranked in the top 10, which is great and is a little bit, it's a step up from where it was before. And then we jump to the East Coast and we're not sitting in the city which won on the East Coast. Montreal ranks in the 11 to 20 zone. Lo confessavo poco fa a Giulia prima di iniziare la registrazione, io pensavo fosse un nome d'arte Tyler Brûlé, perché è proprio nel personaggio anche un nome così originale. Lui è davvero un personaggio leggendario, quindi se lui fa una stila, una classifica delle migliori città del mondo, insomma qualcosa di attendibile c'è. E il collega canadese di QTV gli chiedeva: dai, dacci già qualche anticipazione. Poi sì, ha questo nome un po' francese, perché sapete in Canada c'è questa grande influenza francese, e poi ha anche, lo aggiungo così se per chi lo volesse seguire senza comprare Monocle tutti i mesi, ha una rubrica su Financial Times. 2 settimane fa ha fatto la prima recensione di chi porta l'iPad in spiaggia, che faceva abbastanza ridere perché ha raccontato di una moglie che si è arrabbiata moltissimo perché, no, di un marito che si è arrabbiato perché la crema della moglie è finita sull'iPad. Ecco, questo è Tyler Brûlé. Comunque insomma qui siamo alle classifiche, una classifica diventata già insomma importante, quella di Monocle, e qui dice: beh sì, well I can reveal, può dire qualcosa. Evidentemente la rivista non era ancora uscita, lui faceva un po' il teaser per spingere la gente a comprarla, e quindi ci svela solo che c'è one Canadian and one North American made it into the top 10. To make it into vuol dire riuscire a entrare in la top 10, naturalmente sappiamo è la classifica, può essere la classifica dei dischi più venduti, delle sgallettate più alla moda, o appunto delle città più vivibili. Ovviamente l'interesse del giornalista è quello di sapere le città canadesi dove stanno. Sì, perché appunto come dicevi era il canale canadese QTV, loro erano lì, e quindi erano, anzi per la precisione, a Vancouver. Insomma, how Vancouver ranked. To rank, naturalmente rank è la posizione in classifica, il posto in classifica, è anche un verbo, quindi come how Vancouver ranked, come si è piazzata. E poi anche qui giocano un po' tra di loro, dicono: ma no, non diciamolo, otherwise people switch off. Se no le persone magari cambiano canale una volta che hanno saputo quello che volevano sapere, cioè dove si è ranked l'amata Vancouver. Quindi un'indiscrezione ce l'abbiamo poi almeno su Vancouver, cose che gli svela. Sì, perché anche qui insomma fanno un po' i bambinetti. Allora il conduttore dice: ma sì, allora possiamo dire che questa città rhymes with, to rhyme with naturalmente è fa rima con, quindi esattamente come in italiano, e appunto da lì si capisce già che sarà Vancouver, perciò sono a Vancouver, sono entrambi canadesi, e sono molto contenti di annunciare che in questa classifica, che è naturalmente globale, l'Italia, premetto, non riesce mai a entrare, le città italiane. Può sembrare strano, ma poi ci spiegherà perché, o meglio, poi forse capiremo perché. Insomma, è una classifica globale, però Vancouver ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta. E poi cosa possiamo ancora dire di questo estratto? Appunto, io credo che loro si trovino proprio a Vancouver, si capisce da quello che poi dice in chiusura dell'estratto che abbiamo sentito. La città era già riuscita a entrare, però, spiega Tyler, it's a step up from where it was before. Quindi è riuscita, un step up è letteralmente un passo in su, e quindi we now sit in the city. No, questo in italiano noi non lo possiamo dire, no? Noi sediamo nella città, noi diciamo siamo nella città in cui, invece qui è un modo di dire in inglese, we now sit in the city, quindi siamo nel posto in cui siamo, diciamo, siamo accomodati, siamo comodamente presenti, ecco, ci siamo qui in questa città. Città che sta tra dischi caldi, come si diceva un tempo, dopo la top 10. Esatto, quindi ranked in the 11th to 20th zone, perché questa classifica in realtà è, appunto, va da 1 a 20 e ci sono... c'è il top 10 e poi c'è chi invece come nella, attende di migliorare ed è lì tra l'undicesima e la ventesima. Ma quali sono, vogliamo saperlo, i criteri di Tyler Brulé, quindi di Monocle, nella stesura di queste classifiche? Variety of reasons and maybe just to go through our metrics and why it's a little bit different than what the UN and a lot of other people do. We tried of course mix all of the important things like are you going to get knifed on the street and how good is the education. Oftentimes, I think Calgary is a lovely place, and there's many cities all over the world which are great. Bern, for example, in Switzerland, always comes number two or three. It's not really fair to put a Bern or a Calgary on a list because they're rather small, and it's very hard for them to measure up against the likes of Calgary. Still small. Calgary, I mean, it's better connected than it was. The letters are coming in right now. I know, absolutely. Yeah. Okay. But also, we what makes our list a little bit different, we also look at the softer features. So how easy is it to get a drink at 3 o'clock in the morning? Mm. How many cinema screens are there? Are there 4 or 5 good private galleries, or are there 500 in the city as well? Io, Giulia, adoro questi criteri per giudicare la bellezza di una città. È molto al di là della bellezza, la vivacità culturale, le opportunità che questa città offre. Variety of reasons. C'è una varietà di ragioni. Sì, cosa possiamo dire? E poi ci dice, just go through our metrics. To go through something vuol dire lasciate che vi spieghi bene, cioè che io passi attraverso qualche cosa spiegandovela. Quindi, to go through our metrics, lasciate che vi spieghi la nostra metrica, cioè i criteri che abbiamo seguito per stilare queste classifiche. Naturalmente, dice, ci sono le important things che ci si aspetta di trovare in queste classifiche. Addirittura dice come le classifiche che fa la UN, cioè le United Nations. Quindi Tyler, sappiamo, insomma, è simpatico, è intelligente, creativo, non è modesto, perché paragona subito la sua classifica a quella delle Nazioni Unite, delle città più vivibili, e quindi naturalmente ci mette, per esempio, un parametro come l'education, che abbiamo visto l'altra volta, non è la buona educazione, ma l'istruzione. Quindi quanto è facile avere o a quante persone è accessibile una buona istruzione in una città. E poi c'è anche un problema delle città più grandi o più piccole che hanno delle chance diverse di entrare nelle classifiche in generale. Sì, lui adora, devo dire, chi legge un po' Tyler Brulé sa che adora la maggior parte delle città svizzere. Quindi per esempio Bern, che lui dice always comes in at number two or three, cioè si piazza sempre, to come in at vuol dire piazzarsi in una classifica al numero 2 o 3. E poi dice, per sottolineare quanto questo sia incredibile, che in realtà it's not really fair to put them on the list, che non è neanche onesto mettere città come Bern e Calgary, perché cita anche Calgary, in una lista dove magari appunto ci sono poi dei colossi come Londra piuttosto che Parigi. E nonostante questo, poi nella classifica Berna si piazza bene, quindi lui ci dà un doppio messaggio, insomma, andate a vivere a Berna sostanzialmente. Ci sono alcune caratteristiche molto originali, forse non tutti concordano, perché non tutti ad esempio vogliono andare alle 3 del mattino a bersi un drink, però effettivamente danno l'idea della vivacità di una città. E qui è interessante come usa la parola software, perché noi sappiamo, la abbiniamo sempre al software del computer, no? I programmi sono il software, il hardware è il PC fisico, però in realtà queste due parole, software e hardware, possono essere usate proprio sempre, come una è la, possiamo dire, la sovrastruttura e l'altra è l'infrastruttura, in un termine un po' d'altri tempi. Però quindi, a parte l'istruzione, ci sono le software features. E quali sono? Per esempio, how easy is to get a drink at 3 in the morning? Quindi qui a Milano sappiamo che, per esempio, alle 3 del mattino è difficilissimo trovare un drink, avere la possibilità di avere un drink. How many cinema screens are there? Quanti cinema abbiamo? Beh, Milano, insomma, non malissimo, anche se ne abbiamo persi un po' per strada. E poi, are there 4 or 5 private galleries? Perché qui non stiamo parlando dei musei, che chiaramente le città grandi stravincerebbero. Quindi ci sono 4 o 5 gallerie private? O 500 o 500. Berna non so quante ne ha, però probabilmente ne ha tante. Beh, sono criteri effettivamente molto originali, però come è originale lo stile di Tyler Brulé? Ma lo abbiamo detto, sono in Canada, quindi un po' di campanilismo c'è. Canadese il giornalista, canadese l'ospite, quindi Tyler si parla delle città canadesi nella classifica. E quindi Su questa città in particolare, prosegue Tyler Brulé. Vancouver, part of it is opportunity, and we one thing we added this year was how easy is it to also open up a small business? That was a new metric that we added to the list as well. How pro family business or pro independent business as a city, and Vancouver did very well in that area as well. We also looked at the opportunities on the horizon. Of course, the Olympics coming up. This is also going to be probably quite a good city if you actually want to get into a small business right now as well. So that helped them jump up the list. And is it, by the way, is it going to be a good city for everybody with the Olympics opening up there? Because of course, there's the argument that rising prices, it's becoming actually an inaccessible city. Well, I think the what you'll get with Vancouver is I think it'll have a positive Olympic legacy. That's certainly our hunch at the moment, because they're not starting from scratch. Lo abbiamo detto, era un'intervista di qualche tempo fa, si attendevano ancora le Olimpiadi e quindi ci si preoccupava molto di quello che sarebbe stato il destino, ad esempio, di Vancouver con le Olimpiadi, anche perché per far entrare Vancouver nella classifica è stata adottata una new metric, un nuovo criterio, perché effettivamente si sono resi conto che città come Vancouver presentano un'ampia varietà di opportunità. Certo, quindi come diceva prima, let me go through our metrics, quindi lo usava al plurale, e qui dice we added a new metric, quindi un nuovo criterio. E questo nuovo criterio, se ci pensate, è una cosa intelligente che sfugge normalmente alle classifiche. How pro-family business, cioè pro-independent business, le nostre PMI, le nostre aziende a conduzione familiare, a city is. E quindi poi dopo vedere, e questo entra poi nella classifica generale. Vancouver did very well. To do well naturalmente vuol dire ottenere un buon punteggio, letteralmente fare bene, quindi ottenere un buon punteggio in quel metric lì. Tra l'altro, appunto, dicevamo il problema delle Olimpiadi e una lungimiranza in questo senso, perché i canadesi si chiedevano, sì, una buona cosa, ma poi cosa succederà? E qui un altro false friend, the argument, naturalmente non è l'argomento, ma l'argomentare più che altro, quindi la ragione che viene fuori, il motivo che viene fuori è che naturalmente the Olympics in generale, per esempio, fanno the Olympics opening up there, cioè appunto sappiamo che ci sono state le Olimpiadi invernali, will bring rising prices, faranno salire i prezzi di tutto, dal real estate, cioè l'immobiliare, a tutto il resto. E secondo Tyler poi in realtà non sarebbe successo perché la città era comunque si stava preparando da tempo, non era così una cosa improvvisata l'Olympics, le Olimpiadi invernali di Vancouver. Not starting from scratch. Esatto, not starting from scratch, questa è una bellissima espressione. To scratch vuol dire anche, lo fanno i gatti per esempio, no? Si grattano, chi ha un gatto lo sa, grattano tutto. Però to start from scratch vuol dire iniziare da zero, nel senso come se ci fosse un foglio bianco, ecco, iniziando da zero. Nella logica delle Olympics, però iniziando con largo anticipo, secondo Tyler non ci sarebbero stati poi questi disadvantages, semplicemente la città avrebbe avuto una very positive Olympic legacy. Legacy è l'eredità. Devo dirti che, ti confesso, questo Tyler Brulé mi piace tantissimo, mi piace molto questa sua metric, questi suoi criteri per giudicare le città, però il nostro tempo radiofonico anche per questo sabato si conclude qui. Vi ricordo l'appuntamento sempre in edicola con il nostro English 24. Ringrazio Filippo Aureggi in regia, da Marta Cagnola e Giulia Crivelli. Un saluto e l'appuntamento alla prossima settimana.